Uscirne è impossibile per noi, è uno slogan falsità. Il nostro caro angelo si ciba di radici e poi lui dorme nei cespugli sotto gli alberi. Ma schiavo non sarà mai. Gli specchi per le allodole inutilmente a terra balenano ormai, come prostitute che nella notte vendono un gaio cesto di amore che amor non è mai. Filtrano traccianti.